chiamate? Chi è? Roberto, chi sei? Ciao Roberto. Ecco, da sorso. Ciao Fra, tutto bene. Chiama a posto per lui. Non ci lamentiamo, dai. Certo. Ormai non c'è più nessuno, non c'è. È buio, sono appena acceso e trascito. Dopo che torno a lavoro, trascito 10 minuti, se c'è qualcuno. Molte volte trovo Giulio, poi verso le 8 arriva Antonio, quando io sto chiudendo. Qualche volta c'è Coso, chi c'era l'altro giorno? Antonello Pompunio, Gianni Rubroffetta, così, ma poca gente comunque. Ma ieri... ieri sera ho sentito che c'era portante, va, di nuovo svegliata sì. Ehi, a quanto ti è arrivata quella portante dalle parti tue? Ma mi arriva intorno ai 9.05. Boh, strano però questo discorso, a me mi arriva oltre 9.25, infatti schiaccia tutti, l'unico che passava era Antonio, però gli dava fastidio che arriva 9.30 e Gianfranco quando ha sollevato, tutti gli altri li schiacciava proprio, non esistevano. E allora è lì vicino a voi, sicuramente, c'è qualcuno che è vicino a voi, o è alla Pedroce oppure da qualche altra parte. No, ma la Pedroce dice che arriva a 9.20 e quello che è cosa strana. Poi ci sono delle zone, a meno che non si sposta con la macchina, io sinceramente non lo so. Pensi che sia in macchina, probabile anche. L'altro giorno era molto fastidioso, proprio a Giulio, ce l'aveva con Giulio ogni volta che parlava, però alla fine Giulio si è spostato, se ne sono andati in un canale non so dove, forse più in alto, dove lui non poteva arrivarci probabilmente. I canali oggi ce li hanno tutti, ce li hanno. Dipende che tipo di canale è. No, sempre qua manda 11 metri, però varia, anziché 27.75, 27.7, fuori, un po' fuori, dai. Capo, sì. Vabbè. Aspetta, nel 2021 tutta gente grande, non ci sono neanche bambini, mettono portato. Infatti quello che fa ridere, cioè ci sono degli adulti, non stiamo parlando di bambini, finché lo vuoi un bambino, ma tanto quanto, ma probabilmente il bambino non lo farebbe una cosa del genere, qua stiamo parlando di adulti e vaccinati. Niente grido, siamo tutti dai 50 anni su, più o meno. Dammi un controllo Gianfra, di nuovo. Tu c'hai un modulato, c'hai un segnale di 8, la radio è sempre la stessa, sempre buona. Mi ascolti pulito, proprio 5, non mi porta presso Mondezza. Qualche po' di propagazione, però quando ci sono quelli che ti superano le modulazioni, quelli ti annullano un pochettino, ma noi ti annullano, si sentono sotto, va. E dimmi un po', tu Porto Torre, sei molto aperto sempre Porto Torre. Io Porto Torre lo vedo da qua. Sì, ma dico, ti arrivano più forte quelli di Sassari o quelli di Porto Torres? No, quelli di Porto Torres. Ce li hai di fronte perché è tutto aperto. Sì, quelli mi arrivano 9.10, 9.15, qualcuno 9.20. Dimmi una cosa, ma di sorso c'è Vannino, tu e poi chi c'è che parla di lì? Nessun altro. Sì, ma ce n'era un altro, chi era l'altro? L'altro. Ce n'erano un bel. Poi piano piano se ne sono volato. No, non dico tanto tempo fa, parlo di recente, l'anno scorso, dai. Non lo so. E cose di Senoli c'è qualcuno? Gavinuccio c'è. E basta. Solo Gavinuccio c'è. Ma dimmi una cosa, di cognome è Colacini sta questo di Senoli? Guarda, non lo so perché lo conosco solo come Gavinuccio e basta. Ah no, pensavo che fosse tuo conoscente. E se non gli darebbe la bomba, perché sono attaccati? Io mi faccio la radio. Vediamo un po' se qualcuno nel frattempo vuole entrare, attenzione al canale 10, chi ha intenzione di entrare, avanti con la buonasera. Ciao Roberto e ciao Franco, buonasera, avanti. Giulio, tutto a posto, ti rilancio a Franco, vai Franco. Ciao Giulio, me l'ho ascoltato. Mi hai detto di mandarvi quella frequenza, non me l'hai mandato. Sì, non c'è problema, Fra. Te la mando. Non c'è problema. Sì. Vabbè, dai. Ancora la portante non è arrivata, no? Forse oggi è in ritardo. Stavo aspettando a te, stare giù, cacca, non ti lamentare, già arrivo. Ah, ecco, no, ma, perché adesso ne sento anche la mancanza, figurati. Sto scherzando naturalmente, speriamo che sia stato un attimo di coso, di infantilità, diciamo, non diciamo altro, dai, che si sia calmato, sia scaricato e finisce tutto qua, dai. Ehi, se non per me è uguale, non cambia niente, che se ne frega, tanto, no, se le persone non sono riuscite ancora a crescere il cervello, non è che è colpa di nessuno, No, ma ce l'aveva anche con altri, ce l'aveva con Natalino, ce l'aveva con Gianfranco ieri, ce l'aveva... per un momento l'ha messa anche a te, forse distrattamente, non lo so, però non si rende conto che facendo così sta mancando il rispetto non solamente a chi sta trasmettendo, ma anche a quelli, soprattutto a quelli che stanno ascoltando, perché il problema è di quelli che non ascoltano, non di quelli che trasmettono. Certo, è normale. No, qua l'unico che passava quando ha sollevato era Gianfranco, tutti gli altri li ha schiacciati a tutti, proprio schiacciati di brutto. Anche a Claudio vabbè, stava uscendo con 3 watt, era 9,25, questo era più forte del 9,25. Ok, vabbè, non c'è problema. Comunque noi abbiamo sempre la soluzione, perché noi poi alla fine stavamo parlando su due canali, sempre in 11 metri, per cui non c'era problema. Solo che bisogna avere un minimo di intelligenza per poter fare certe cose. Va bene, va bene. Avanti Franco. Va bene, giù, ma non si deve arrivare a questo punto di... che uno deve scappare per andare in altre frequenze, perché c'è, sono delle persone che non gli va di modulare e disturbano gli altri. Non è una cosa giusta per me. Sì, ma vai a farlo capire a certi cervelli che non hanno ancora sviluppato il massimo aiutami Robert, ma che mi sfugge l'aggettivo. Maturità. Esatto, quello che volevo dire. Vabbè, dai, comunque non è un problema. No, voglio solo far capire che ieri qua poi erano rimasti 3 persone e noi nell'altro canale eravamo in 5, sì. Per dirti, no, e nel contempo potevamo parlare in un posto e nell'altro. Vai fra. Certo, magari. Quando si è sporcato magari la portante ha messo appresso. No, forse era disperato cercando dove eravamo, ma non è per lui, assolutamente. Vai Roberto. Mandamela quando c'è il tempo, almeno così, per informazione. Ok, senz'altro, dopo Roberto c'è problema. Vabbè, comunque. Vediamo se c'è Natalino, ci sei? Natalino ancora non è entrato evidentemente, o è indaffarato, non lo so, vabbè dai, se prendi fra. Adesso si può uscire per quello, magari sarà uscito, la gente adesso esce, come io stesso ieri ero quasi tutto il giorno sasso, fare commissioni che avevo in arretrato. Avanti Roberto. Adesso io già sono matesso, non ho problemi, non mi sono mai messo problemi da quando è successo a quando finirà, sempre che finisce questa storia. Quando lo fare lo faccio, non me ne ha fatto nulla, poi vediamo come va a finire. Non mi devo rovinare la vita, io ho 4 macchie che sono a decidere il nostro futuro. Ok, vai Giulio, a te prendi. Avanti chi è? Avanti? Forse la propagazione, non ho capito bene, forse la propagazione. Chi è che vuole entrare su questo canale? Avanti? No, sento troppo basso, cosa ha detto Roberto? Allora, questo era un'altra persona, perché erano due, questo è Santiago Otto, l'altro era Santiago Nobel, mi sembrava spagnolo perché ha detto buonastarda. Questo non vorrei che sia Nicola. Nico, tu sei? Nico, ti sento basso, sei in mezzo al QRM, non so, vabbè, penso che per loro è anche peggio a copiare, sentirti. Va molto basso, vabbè, avanti fa. Capo, sì, era basso, anche da me era basso, era un segnale di 3-4. Però ho sentito solo breco e basta, poi non l'ho sentito più, sicuramente la propagazione. Infatti si sta alzando un pochettino. Avanti Roberto. Io forse vi ho parlato sopra, no, uno mi sembra che sia Nicola, però sento piccolino piccolino, il segnale c'è, però non c'è il radio, è vero assoluto. L'altro era 9 ed era probabilmente spagnolo perché ha detto buona strada. Attento in Spagna, se scucci l'Italia che chiama. Attento sul Spagna, ascoltiamo da Sardegna che ti ascolta con la buonasera. Avanti sud della Spagna. Ok collega, guarda, ho sentito l'inizio del tuo messaggio, però non, il resto non ho capito, la preparazione non è molto buona, ti mando avanti un altro amico, probabilmente lui ti ha sentito meglio, avanti Roberto. Ma sembra una modulazione strana, mi segnale c'era, è salito anche a 9.10, però sembrava che fosse in FM, infatti ho commutato in FM, sembrava tipo fuori frequenza, non riuscivo a capire quello che stava dicendo. Avanti di nuovo in Spagna, se scucci l'Italia che chiama. Certo, sicuramente si sta aiutando con qualche giocattolino e si satura un po' la radio, perché il segnale è arrivato a 9.10 qua, però la voce era strana. Sì, è basso di radio, è molto basso di radio, io non ho sentito solo l'inizio del suo passaggio, ma poi è sparito, non ho capito niente. Va bene, dai, avanti fa. È arrivato alto, poi piano piano, non parlando a stesso, si è abbassato. Cioè, probabilmente è arrivato un colpo di propagazione che l'ha fatto salire di segnale, l'ha fatto salire. È così, Roberto, avanti. Sì, l'ho sentito un attimo, è arrivato a 9.10, il primo passaggio era intorno a 9, e poi c'era uno basso, secondo me è coso, Nicola, ma lo sento proprio basso, basso, basso, già ieri era difficile sentirlo, e oggi è ancora peggio. Capo, no, ma no, Nicola, se lui non sentiamo, perché con la propagazione non riesce a tirarlo fuori, già fai fatica quando non ce n'è, figurati quando c'è la propagazione, guardate giù. Ok, no, non era Nicola, perché qui era arrivato a Santiago 9 qualcosa e poi si è abbassato di colpo, per cui no, non era Nicola assolutamente, no, poi l'avrei conosciuto subito, già faccio fatica a sentirlo a Nicola, però non era lui, non arriva lui con quel segnale qua. Va bene, dai, avanti Roberto. No, ho detto che secondo me erano in due, perché io sentivo la voce bassa bassa, un segnale 7 e poi l'altro che era 9, quello spagnolo, anche 9.10 è arrivato. Sembrerebbe Nicola perché la voce è bassissima, lui sta uscendo con un portatilino e con l'antenna. E mi ha risposto io quando l'ho chiamato, ho sentito poco a poco che mi ha risposto. Ah beh, se è così io non so cosa dirti, sarà magari dalle parti tue, così col portatile, o forse la batteria scarica, non lo so. No, alcuni giorni fa l'avevo sentito qua in zona, no? Perché qui in zona lui adesso ci verrà sicuramente molto spesso, in quanto è venuto ad abitare il figlio, che è l'appartamento qua nella zona dove sono io, per cui avrò modo di ascoltarlo finalmente, perché quando è lì a casa faccio molta ma molta fatica, soprattutto quando c'è QRM alto. E a proposito, io in questo periodo sto registrando QRM, robe anche di 7-8, non capisco per quale motivo. Vai Roberto. Allora adesso ti devo dire una cosa, io ero qualche settimana che c'avevo il QRM oltre 8, intorno all'8 dai, ieri stranamente ce l'avevo al 6, perché qua il QRM è almeno 5, minimo il 5 qua, e sono stato per un po' di tempo, un paio di settimane per non dire un mese, sempre col QRM alto, 8, 8 e mezzo, infatti molti segnali non riuscivo a tirarli fuori proprio per quello, ieri stranamente era più basso, oggi è intorno al 7, tu probabilmente sei un meno rumorosa la zona tua, qua è molto rumorosa. Ma non so cosa dire, adesso in questo momento è 7 quasi, 6 e mezzo, dai, per l'esattezza. Ma ieri, anche ieri era anche 8, anzi c'è stato un momento che è arrivato anche a 9. Non capisco il motivo, come mai, che prima di solito qua era sempre 4, 5, non di più, ma quando 5, quando pioveva addirittura, non con la giornata bella come possono essere in questi giorni. Per cui, vabbè, comunque. Climatica. Avanti fra. Ecco. Ti dico una cosa, giù, che da quando l'ho aggiustata questa antenna ha migliorato di qualcosa, ha migliorato. Cioè meno QRM, perché vedi adesso, se io lo mollo, lo lascio andare QRM a 1, 1, 1 e mezzo, cioè, e poi ho guadagnato in qualche segnale ha guadagnato. È evidente che quel pezzo di filo che si era attaccato gli faceva parecchio. Ok. E dunque allora con questo baracchino nuovo Midland, due nomi, Alan Midland 44, AMFM, basta, non c'è altro. Come sta arrivando fra? Tu sei 9 a portante, modulati a portante, modulati 9.5. Allora va bene, dai, va bene, ok. Allora che Roberto? Roberto che c'è al telefono allora. Sì. Lo sento più diversa la radio da prima a adesso, però gli ho fatto anche un altro lavoretto, gli ho tolto tutti i commutatori e gli ho messo l'antenna diretta. Ho capito, anche quello, perché quando ci metti tutte le cose come il wattmetro o il rosmetro e tutte le, anche lo stesso commutatore dell'antenna, eccetera, anche quello ti ruba sempre un minimo di punto S, ti ruba, per cui quando è diretta l'antenna è tutta un'altra musica. Certamente sì, magari il guadagno è stato anche quello. Capo. Sì. C'ho solo un rosmetro attaccato perché quello non lo attaccherò mai, perché quello è una cosa che l'ho messo io dall'inizio per avere sotto controllo le stazionarie e tutto, non si sa mai. Perché se non avrei avuto quello il giorno che mi sono salito le stazionarie mi avrei bruciato la radio. Quello è vero, Beh sì, lo strumento già è utile se mi hanno attaccato, però diciamo almeno un 02, un 03 anche si ruba senz'altro. Comunque non fa niente, no, non è così importante, tanto è uguale, il segnale è sempre quello. Roberto, sei rientrato? Sì, sono rientrato, no, mi ha chiamato un attimino mia figlia, infatti 2 minuti mi sono allontanato e ho sentito di fratello, vabbè, purtroppo questi commutatori qualcosina te lo tirano via, anche se ne hai il migliore del mondo, sempre una fesseria lo tira, però è sempre avere sotto controllo i segnali, le stazionarie per evitare i problemi. Adesso ho fatto delle modifiche nella mia stazione, ho messo diretto l'MT3000, così mi vedo tutto quello che succede, è bello grande, c'ha un bello strumento, quello della Magnum, e più c'ho l'apparecchio che mi dà l'indicazione della potenza. Oh Robè, dimmi tutto. Tu non ci crederai, il commutatore non riusciva a tirare le stazionarie, non riusciva a tirare l'antenna col commutatore. E poi così mi è saltato in testa e ho detto ma adesso è diretto l'antenna diretta. Così ha detto me lo attarro direttamente con l'antenna diretta. Tolgo il commutatore, metto l'antenna diretta al rosmetro. Sono sceso questa stazionaria, è una meraviglia. Che cos'è? Che accordatore c'hai tu? Non è un accordatore, è un rosmetro della Daiwa. Quindi è solo misura solo il stazionario, non accorda? No, questo solo il stazionario mi misura. L'accordatore è della ZG. Questa la Magnum, non so se lo conoscete, cercalo mi Giulio, forse lo conosco Giulio, l'MT3000 della Magnum è una bestia, sino a 2 kW, però non c'ha niente a che vedere con quella ZG, c'è anche il TM1000, l'ho usato per tantissimi anni, ma quello l'ho messo per la linea secondaria, dice 2 kW, se lo vedete tutti ti metti a ridere, guarda, c'è confronto a questo della Magnum, ce l'avevo sempre, però non l'avevo mai attaccato questo della Magnum, c'ha già tutte le bande 80, 40, 20, 15, 11, 10 metri già commutate, ti scegli la banda, dopodiché poi ci sono tre posizioni di antenna, il carico fittizio, l'uscita diretta dell'antenna e poi c'è un altro D3, non so cosa serve, non l'ho mai provato. Io ho la KT1000 della ZG come accordatore, però accorda bene, nuovo, ho visto che avevo le stazionarie alte, me le accordate, me le ascese a 1 e 1, me le ascese, e vuol dire che già funzionano. Ma è una domanda, ma nel tuo non c'è l'accordatore interno nell'apparecchio? No, con questo no, questo non ne hanno. Giulio, il tuo penso di sì. L'accordatore interno? Beh, in questo 44 lo ha, è un baracchino. mio questo, dunque lo c'è. Ah vabbè, ci sono certi 44 che ce l'hanno, dai, magari forse lo mettono esternamente, dai, come non detto. Cosa volevo dire, adesso me ne sono dimenticato, stavo dicendo qualcos'altro, però l'apparecchio te le puoi vedere le stazionarie, basta metti la posizione SWR e ti indica le stazionarie. Beh, quando si usa la radio professionale, certo, Robe, si usa la radio professionale, ma nel baracchino, come sto usando adesso, no, assolutamente no. Ok, sì, stavo dicendo, adesso ho attaccato a caricare il telefonino, sentite qualche ronzio, qualche rumore, perché nella stessa presa dove si è attaccata la radio, il baracchino. No, non sento niente, no, ma io sia nel Ruiz che nel Pace e nel Multicom ce l'ho l'indicatore Rosmet attaccato. Sì, ma io sto parlando del capo, No, l'ho già capito, no, perché magari nell'anaparato ti dà soltanto la lucetta rossa quando c'è le stazionarie, ma chi sei sempre ruia, se tu controlli anche se ce l'hai a 1-1 lampeggia sempre, quella secondo me fa ridere, non ho capito cosa l'abbiamo messa quella cosa lì, forse se ce l'hai a 1-5 segna fisso, le altre anche se tu ce l'hai a 1-1 quello lampeggia sempre, infatti non so se dura la 3 cos'è, la sisciuglia. Quasi. No, io ho il presidente Lincoln, quello lì ce l'ho, me le accorda anche, cioè me le accorda, cosa accorda? Me le leggo anche le stazionali. Sì. Quelli, tutti gli apparati a Kefra, la maggior parte poi ce li hanno quasi tutti, almeno credo, quelli che ho conosciuto io, più o meno ce l'hanno tutti, l'indicatore c'è il tastino, che c'è Power, SWR, qualcuno c'ha anche il tasto della LC per vedere come, tipo modulometro, per vedere come sta uscendo il coso, la modulazione. Se non fate Giulio, avanti. Ok. Sì, beh, quello per regolare le stazionarie ce l'ha questo, sì, se questo sì ce l'ha, l'SVL, sì certo che ce l'ha. Ma tutti i baracchini penso, a meno che non è qualche baracchino proprio di vecchissima concezione, allora hanno anche non ce l'ha, ma i baracchini nuovi ormai ce l'hanno, il Rosmet, per così dire, incorporato, non so quanto valga, però ce l'hanno. Allora io il coso addirittura nell'altro, quello più bello di tutto, il baracchino che c'ho, il Multicom, allo base c'è anche il modulometro, c'è il rosmetro, il valvometro e il modulometro, del coso, oltre che il coso, il normale, lo Smith per indicarti il segnale, arriva sino a 9,60, è l'unico baracchino che ho visto, parliamo di baracchini senza salire troppo di grado, è l'unico che c'ha, lo strumento arriva a 9,60 ed è precisissimo, guarda, te lo posso garantire, l'unica cosa è bella è quello lì, la radio, che c'ha tutte le funzioni, il baracchino base, sembra un HF, c'ha un sacco di bande, una marea di bande, perché sono di quelle nuova generazione, però in uscita quasi schifo, in ricezione era meglio del 140, io ho fatto le prove, in ricezione riceveva meglio del 140, più silenzioso. Sì, beh certo, può essere, perché no, certamente sì, no, ma ci sono dei baracchini che sono filtrati molto bene, per cui oggi come oggi, anche se i componenti di prima erano, secondo il mio modo di pensare, migliori di quelli di adesso, però oggi sono più sofisticati, hanno più cose, dai, più controlli, eccetera, però cosa vuoi che ti dica? Comunque va sempre bene, per questa frequenza va sempre bene. Avanti, fra. Capo. Qualsiasi baracchino va bene per questa frequenza, tanto adesso in questo modo, diciamo che una radio, anche se c'è 4 watt, a luglia ti ascoltano, anche se c'è 5 watt, va benissimo, non è il caso di dargli 100 watt. Sì, oggi ce ne sono baracchini che danno parecchi watt anche, ma non so che se attualmente non sono omologati quelli, no, ma quello che sto usando io è omologato, 3 watt e mezzo, 4 watt, non di più, va bene così, non c'è problema, si abbassa per sentirci. Ok? che vai robe. Ho letto il messaggio, va bene, quello che hai letto, ho capito benissimo tutto il discorso, non ti preoccupare, anche io identifico così la situazione, non c'è problema. Ma adesso i baracchini nuovi ormai hanno delle cose rispetto a 10 anni fa, hanno delle funzioni come filtri, non prendono colpi. Prima l'ala 48, sino all'ala 48, diciamo sino agli anni 90, ma che aveva uno vicino che c'era un po' di potenza, ti faceva sbattere tutti i canali. Quello multicom che ho io, c'ha dei filtri in ingresso, tu li puoi mettere sotto casa, a fianco, non senti niente. Mentre col patch, guai, mamma mia, fatevi chiudere. Quando c'era Claudio vicino a me, dovevo mettere le fregne chiuse, se no andava in saturazione e non si sentiva più niente. Sì, beh certo, quello sì, ma si sa, certi baracchini quando ricevono un segnale troppo forte va in saturazione alla media frequenza e si sa, e salta, allora devi attenuare molto anche con le fregne, perché se no non capisce proprio niente. Avanti Franco. Capo. Beh, stavo piazzando l'ora 48, a vedere come mi ascoltate. Dai. Ok, Fra, dai, faccelo sentire e poi ti dirò, dai, anche Roberto ti darà il ragguaglio dei segnali, eccetera. Avanti Roberto. Ce l'ho pronta anch'io l'ora 48, l'altro giorno ho fatto una prova, mi se lo vogliamo confrontare. Avanti di nuovo Fra. Capo, un attimo che lo aggancio. Non ti preoccupare, vai giù. Ok, è così. Ovviamente si sa, il baracchino è fatto così perché sono sempre cose omologate, giustamente, per cui almeno se non altro uno è in regola quando usa il baracchino tranquillamente e non disturbi nessuno. La potenza si sa, è quella che è 3-4 watt, non di più, per cui va bene. Poi chi sente, chi non sente, pazienza, avremo modo di sentirci magari in occasione migliore, che ne so. Io la penso così, Roberto, tanto è inutile stare lì a fare altre manovre, non ha senso. Io lineare non ne ho mai avuto, l'unica volta che ce l'ho avuto l'ho tenuto sino 15 giorni, avevo fatto il fulmine e me l'avevo bruciato. E poi tra l'altro era anche una cosa che mi aveva dato Gianni, chiaramente, era un 747, me l'ha bruciato il fulmine, e non solo quello, altre cose anche insieme a quello mi aveva bruciato, compreso il router e anche del computer. Vai Roberto. Giulio, un attimino, sono al telefono, scusa. Giulio. Sì, Franco, avanti. Sei capo, mi senti? A voglia se ti sento, leggermente più basso di prima, ma ti sento benissimo, sei intorno ai 9-10 quasi, 9-8 là, siamo lì. Allora non è bassino, questo no, sta uscendo con 3 watt, dai, dovrebbe andare, aspetta, vedere, ecco, schiaccio qua, 3 watt, 4 watt e mezzo rilevati. Sì, ma va benissimo, 9-8 modulati, 9-5 gli segnali l'importante, 9-8 modulati, va benissimo, a voglia, non c'è problema, si sa, la potenza è quella, con quei watt lì cosa vuoi avere di più, anzi c'è anche troppo. E capo, avanti Roberto. È al telefono Roberto Frani, quindi là. Al telefono, questo è la 48. Questo qua non lo aggancio quasi mai, sì. È sempre da una parte, ma questi sono fratture. Sì, beh certo, dalla 48 è un bel baracchino, indubbiamente, l'unica soluzione è che se hai qualcuno vicino magari soffre un pochino di flutter, però come trasmissione è andato sempre molto bene, hai detto bene, è un trattore veramente. Quello lì non è il mio problema, non ne ho gente vicino, che ne murla. Almeno io sono da solo quasi qua, a meno che non entra qualche volta dal mio. Ok, anch'io più o meno siamo nella medesima situazione. Io vicino che ho nessuno, all'infuori di Massimiliano, ma è abbastanza lontano, sarà un paio di chilometri da dove sono io, per cui però in linea d'aria magari non sono 2 chilometri, sono sicuramente di meno, però va benissimo, e poi ci rispettiamo l'uno con l'altro, no? Non c'è problema, ci mancherebbe altro. Sono rientrato. Vedi, diciamo che solo che anche Massimiliano, se aggancia qualcosa mi sblattera anche a me, sblattera, perché arriva forte qua lui, arriva. E se proprio aggancia, c'è forte come tipo quando vai in 45 metri, esce fortissimo e mi sblattera se metto questo qua, invece quell'altro no, avanti, vabbè. Ma questo non è 48, è fra? Sì, questo è 48, è abbonato con le BB25. Alla grande stai andando, sei quasi 9 di segnale, c'è appena di fruscio probabilmente perché ti porti appresso qualcosa, però la radio è bellissima, forte e chiara, complimenti. Probabilmente si è acceso l'alimentatore, si è acceso, c'è la ventolina e senti quella lì. Ma ti sta aiutando? No, sto uscendo. Allora, 4 watt e mezzo, 2 lati. No, stai facendo benissimo, molto molto bene, pulita. Guarda il segnale con quella radio lì, per curiosità, rispetto a prima, si è cambiato qualcosa il segnale tuo in ricezione? Guarda, tu mi arrivi 8 lo stesso, come mi arrivi là, mi arrivi, la modulazione è uguale. 8, quindi arrivo sia con una radio che con l'altra. Sì. Allora, con l'antenna probabilmente rende in trasmissione, però in ricezione perde un pochettino. Cos'è? Un aringo? Cos'è detto? No, io ho la mantova turbo. È strano, cacchio, io ho la mantova lo stesso, eppure abbiamo due segnali differenti. Tu mi ascolti 8 e io ti ascolto 9 e 10 qua a Sassari. Guarda, non lo so quello. E infatti mi sono accorto che da quando l'ho messo a posto, che mi tirate su, mi stanno dando i segnali più alti, non ho capito niente. Giulio, tu quanto ascolti a Franco? A Franco adesso lo sto ascoltando, oggi portante è 9,5, modulato è 9 più 8. A te invece ti sto ascoltando, 9 più 15 ti sto ascoltando. È strano, ma alle volte dipende anche dallo strumento che segna in maniera diversa. Tu mi dici che a me mi ascolti 9 più 20, invece io a te ti ascolto 9 più 15, ma siamo lì, non è quello il problema. È una differenza di smitter probabilmente o robe. Sì, no, ma tra te e me siamo quasi uguali. Quello che mi meraviglia è che Franco, lui arriva 8 da lui, cioè lui mi arriva 9,10 qua, cioè una differenza di segnale impressionante. Lo so, purtroppo succedono queste cose. Evidentemente tu sei troppo in alto rispetto a lui e magari gli passi sopra, si disperde molto il segnale e sarà per quello, mentre invece lui, essendo un pochino più in basso, prende proprio il segnale in pieno la tua antenna, sicuramente è così. Avanti, sei Franco. Non te lo so spiegare neanche io questa storia. Con l'altro magari sì, perché con l'altro quando scalda, man mano che scalda, quello lì aumenta, e aumenta un bel po'. Però questo non dovrebbe aumentare, perché questo lì, adesso mi sto zitto, sono 3 watt, 3, 4, 4 e mezzo modulati, non di più. Ma la radio si spinge parecchio. Giulio, mette con l'altra radio lui quando ti arriva. Ho caso mi stava arrivando 9,10 pieno, mi stava arrivando. Adesso con questo invece si è abbassato un pochino, a 9,5 e 9,8 modulati. Ma la differenza poi non è così tanta, perché prima era 9,10 e adesso modulati arriva a 9,8. Ah, vabbè, più o meno allora i segnali sono come me, tu un po' più forte magari lo ricevi qua adesso, a me lui è quasi 9. Evidentemente qua fra me e lui c'è un varco più aperto, magari anche allo stesso livello più o meno, per cui sarà così, non lo so. Ripeto, tu gli passi sopra, vabbè, tu magari arrivi più forte, però magari più lontano, ancora più lontananza, non alla distanza che c'è tra te e lui. Tu gli passi sopra e lui ti prende magari un po' di riflesso, capito? È così sicuramente, vabbè. E cosa invece Franco, Giulio quando ti arriva a te? Giulio mi arriva 9, quasi 9,5 Ehi, lui è molto aperto, per sorso, vi vedete, probabilmente le antenne si vedono. Comunque qua sta salendo il QRM, sta salendo alto perché c'è la propagazione, adesso ti ho sentito, però un attimino ti ha coperto la propagazione, Sì. Allora, questo è un diciamo che il microfono è nuovo, l'ho comprato nuovo dall'inizio da più tardi. E l'unica cosa che gli ho cambiato è solo la capsula, gli ho cambiato, e spinge un po' di più. Ti sto ascoltando, però sei disturbato dalla propagazione, perché la propagazione è quasi nuova e tu sei così. Il segnale tuo quando sale un pochettino ti dà fastidio. Se vuoi, se riesci a cambiare radio, vai, ti ascolto anche meglio anche quando c'è la propagazione. Ok, cambio radio, vai, modulato, prendi Giulio. Ok, fa. No, io già lo sento sempre bene, anche quando, con la propagazione lui la supera abbondantemente. A meno del radio non c'è problema, la supera abbondantemente. Sì, è così, Roberto. Ci sta, sono i misteri anche della radiofrequenza quella, tante volte sono inspiegabili certe cose. Però purtroppo succede, non si sa per quale motivo, bisognerebbe essere un ingegnere elettronico per capire certe cose un po' in profondità, ma non è tanto semplice, guarda Roberto. Sì, non lo so, ma il massimo della complicazione era quello di a Fabio Master, che è a fianco a casa mia, 200 metri da me era. Lui arrivava 9,95, ma andando va via, siamo in linea d'aria a 200 metri, c'è un dipolo di antenna, c'è un radio di antenna messo in verticale. Quelli che ci sono più lontani di me arrivavano più forte, cioè lui riusciva ad arrivare più forte, io gli arrivavo a bomba, a fondo scala, però lui a me mi arrivava 9,95, infatti dicevo, ma come cavolo è possibile se siamo attaccati? Probabilmente quell'antenna era completamente chiusa dalla parte mia, c'era un radiale di Mantova messo in orizzontale. Può succedere, io invece non l'ho mai sentito, Fabio io non l'ho mai sentito, infatti non ho avuto modo di ascoltarlo mai, nemmeno una volta, nemmeno una parola mai, perché qua da me non arrivava, mentre invece arrivava da qualche altra parte, credo che arrivasse anche a Ottava, arrivasse da Marino, se ricordo bene, adesso non voglio sbagliare, ma sicuramente Marino un qualcosina riusciva a capire, ma io sono nella vallata, sono rispetto a Sassari, e il problema mio è anche quello, sono 90 metri più in basso di Sassari, sopra il livello del mare, dai. Ah, vabbè, io ti ho sempre ascoltato, non posso mai dire tu meno di 9,10 a casa mia, 9,15 mai, ti ho sempre ascoltato bene io. È sempre questione di posizione, io se dovessi mettere l'antenna dove era prima probabilmente mi sente anche meglio, ma mi va bene davvero, non è il caso di stare di spostare, chi me lo fa fare? Lì va bene, ce l'ho portata di mano, sollevo la mano e stacco il VTL per dire no, mentre invece dove era prima era, intanto era più nella parte più alta del tetto, perché c'era tutta la piovenza, perché prima era la parte dietro, adesso era la parte davanti, facciata. E dunque poi oltre a quello, oltre a tutta la piovenza del tetto, c'era almeno 5-6 metri di palo, mentre invece adesso siamo a livelli di 2 metri, 2,50 metri di palo nel terrazzo, che allungo la mano e lo tocco e tocco il PL, che si può immaginare. Vediamo se è rientrato Franco. Sì, sono rientrato. Guarda che cosa, Gianni che c'è la boomerang, Gianni, ma adesso non mi ricordo il nominativo, quello che aveva messo la boomerang, quello mi arriva a 8, mi arriva qua, non è poco, è la radio, anche di qualche porta a volte strappa. Sì, cosa esce veramente bene, infatti a me mi arriva 9,20, cosa? Gianni Ubroffetta sta dicendo, una bomba, poi c'è una radio spettacolare. Ecco, ma sì, Gianni Ubroffetta, ma sa quanto arriva forte qua? Che tu non te lo immagini, gli hanno agginteggio la boomerang, agli tri, cavolo, penso che sono quelli che hanno l'antenna, che l'hanno pagato un casino di soldi, non arrivano così come arriva lui. Avanti Giulio. Ok, sì, ma lui ha una posizione invidiabile, perché dove è lui è tutto libero assolutamente. Intanto perché abita in un palazzo con una certa altezza, abbastanza alto se vogliamo, e poi è tutto libero tutto attorno, non ci sono ostacoli. L'ostacolo più vicino può essere, che so io, minimo sarà il grattacielo di cosa, come si chiama, di Piazza Castello, quello magari è più alto, forse di lui. Però per tutto il resto non si crede che ci siano molti palazzi che riescono ad essere più alti di dove lui è. per cui va bene. E poi deve aver puntato anche lo stilo dell'antenna deve essere puntato verso l'altra parte probabilmente, o trappo, sarà per quello anche, sai? È probabile che sia puntato anche in la direzione, in questa direzione qua, perché mi arriva molto molto bene. Aspetta, è partito perché lo si sentiva e adesso è una bomba, arriva benissimo proprio. Il radio è uno spettacolo, mi piace anche ascoltarlo a volte. Eh beh certo, ha una bella radio, sì è vero, ha una bella radio e poi evidentemente anche il suo timbro di voce si addice molto a quel tipo di microfono che usa, va bene. Sì, penso che stia usando un 3009, credo, non lo so di preciso, ma suppongo che è così, praticamente è un semplicissimo baracchino monovasto, niente di più. E no, ma lui ha la posizione, a suo favore ha la posizione, perché se non mi ricordo abbiamo fatto anche dei DX insieme e arrivava benissimo anche fuori senza nessun problema. Ascoltavano, vabbè, la preparazione è sempre preparazione, lasciamo stare quello, però lui arrivava ugualmente bene, non c'era problema. Avanti, Robert. Ah, ma io l'ho sempre detto, di quelli che c'ha il baracchino pulito con 3,5 watt, perché mi ha fatto vedere un'immagine col rosmetro, usciva 3,5 watt col wattmetro, lui è quello che arriva più forte, considerando dov'è, esce da una bomba. E cosa, Antonio Bombolo, quanto ti arriva a te a sorso, Frank? Ah, lui arriva a 7. Addirittura, a meno di cosa ti arriva? Poi arriva intorno ai 7, arriva. Modulatemi. Qua da questa parte mia, a parte quelli vicini, è uno dei più forti che c'è di segnale. E io quanto ti arrivo lì a sorso, eh? Quanto ti arrivo? Cararite, cos'è? La brancia è caduto. Segnale 7, ciao Natalino. Ciao Fra, buonasera a tutti. Questo Natalino sta arrivando, Santiago 1, ma deve essere un disturbo da fuori. Ciao Natalino. Ciao Robè. Almeno la Landriga dice che arrivo, Ciao Natalino. Ciao Giulio. Natalino, c'era un periodo dove schicchiava forte, era uno dei più furti, era in quella posizione dove era lui, poi c'era una bella antenna, te ricordi Natalino? Sì. E ce ne sta ancora ridendo quella Mantova 5, sopra 12 metri di palo, Già me lo ricordo, tu arrivavi una bomba, eri uno dei più forti, a parte vabbè questi che c'ho vicino, ma eri in assoluto uno dei più forti. Che roba di DX mi facevo. Natali, tu superi 9-10 modulate, mi superi 9-10 modulate, mi superi. Va benissimo, la radio è perfetta, la grande, veramente. Tornando a cosa, avete chiesto il bombolo arriva a Santiago 7 a sorso. Sai quanto mi arriva a me il bombolo? Sembra strano, no? A me ne arriva il massimo che mi può arrivare il 9,5. Ma quando spinge un pochino, Però di solito mi arriva a Santiago 7-8, non di più. Addirittura qua arriva a 9,30 quando spinge. Perché siete cuoconi. Sì, un tossicone. Bella però. Cuoconi. Vedi bella. Ciao Claudio. Claudio mi arriva a 9,10 pieni. Radio non se ne parla, è sempre la solita. Mi va, ti senti sotto, come ti entra Claudio? Boh, devo abbassare il volume, se no mi sfascia il team. Infatti già, ma come già entro un modo? Beh, sono entrato a salutarvi. Sempre in terra l'antenna, quando la metterò su. Se ne ho voglia però, perché ascoltando queste frequenze in questi ultimi giorni me ne passerei sempre di più la gana. Comunque io sono entrato a salutarvi e basta. Ciao Giulio, Roberto, Natalino e Franco di Sorse di Sennoli, ciao! Aspetta qua, dimmi quanto devo io di radio con questo baracchino qua. Arrivi bene, radio 5, 9, 10, sì, va bene. Ah, ok, qua, e allora già va bene. Questo Alan Midland 44, non baracchino, Alan Midland. Metto il radar a bottata. Va bene, avanti Franco. Capo, qualche accusa ci ha dato. Ciao Claudio, ben ascoltato. Ciao a tutti, divisitevi, ciao. Ha fatto rete Claudio, ha detto Franco di Sosso di Segno. Lui paese è biliardo. Sì, perché lui è in montagna, prende, mette tutto Sosso e mette di Segno. Ciao. Ciao Clara, ci sentiamo quando voglia, lo sa. Capo. Insomma, anche lui, se mette l'antenna, solo con l'antenna gli arriva bene anche lui. Non è problema. Del radio Barinoga. radio quando ti arriva? Lui mi arriva intorno alle 5, ma del radio è come che sia qua. Io no, Claudio di essere sempre fatto sentire, non per dire, ma ti fa di sotto, adesso mi ha fatto sordo, devo abbassare per forza il coso, perché io ho l'altoparlante esterno, che è un bel potente, come ti entrare dove va il risorso? Cazzo. Vabbè, c'è la modulazione molto forte, più ci avrà il MTG appena appena un pochettino alto, purtroppo la modulazione sua è un bel forte. La mania della botta, va, che tu posso dormire, mamma mia, già sta ascoltando adesso. Forza, Gedo, questo è un micro galaxy con una tranne più tre da tavolo, ce l'ho a uno, caro Franco, a uno, capito? Ecco la stanza piccolina del vuoto. Dai, vi saluto, ciao. Ria, ciao Claudia, avanti giù. Ci sentiamo, dai. Stavo aspettando la Giulia, l'hai visto qua? Va bene, stiamo aspettando. Qualcuno si è svegliato giù. Vabbè, non ce ne frega, lasciamo svegliare. Noi invece siamo svegliati presto, questo è il mio punto di ritorno. Vai Fra. Cazzo, cos'è importante? Cos'hai detto, voglio Fra? Cos'è importante? Come ti arriva dalle tue parti? Un carrello 9. Ma qua arriva bello che è pieno, 9.25 arriva. Perché è linea d'aria con te, è linea d'aria con te. A te giù quanto ti arriva? No, ti disturba giù, ti schiaccia proprio, non ho capito quello che hai detto. Forse Natalino passa, prova Natalino tu. Dimmi. Anche a te l'ambo di fastidio Natalino. A tutti e tre, vabbè, Franco, non gliela sta mettendo a Franco. Però arriva a 9.25 pieno, pulito. Io sono liscio, purtroppo non avevo roba da attaccare, se no non avevo già fatto nulla. E c'ho l'antenna bassa. Ti sento di radio, però ti disturba. A Giulio proprio lo crepa. Anche qui lo crepa Giulio. Io sono in quella frequenza là. Natalia, a te quando ti arriva per curiosità? Fondo scala. Fondo scala addirittura. Se te l'ho detto, fondo scala arriva. E che l'ho fatto fra? Sì, da me sì. Qui sta. Non è molto forte ancora, non è molto forte. Franco, quindi schiaccia a tutti, nessuno di noi passa. Giulio passa un pochettino, lo sento, si abbassa un pochettino, dai, la modulazione, Giulio. Ma perché non la smetti di mettere la portata? Niente, a volte non capisco cosa dice. Ma perché non la smetti di mettere la portata, qua ho capito, quel gusto ne hai, ti rompere le balle. E pensare che l'hai sbagliato anche tu, Luca, pensare che anche tu l'hai sbagliato. Luca, a te quando ti arriva? Forte qua, anche se tante ne arriva. Anche quella è la cosa strana, non riesco a capire io la situazione. A Natalio gli arriva a fondo scala, a me gli arriva a 9.25. E schiaccia tutti qua, a parte cosa, Natalino riesce a uscire di radio. Vabbè, devo dire che è il gioco, è il gioco. Vabbè, dai. Gli acidi c'è Carudino e non solo quelli. Non lo so io che divertimento, non so che dire, dai, eravamo tranquilli. Comunque adesso ha scacciato a tutti, con il fischio ha cribato a tutti. Tu passi, però ti dà la mattana anche a te. No, io non l'ho schiacciato adesso. Vabbè, se vedete... No, tu lo passi, Claudio, però sotto si sente un pochettino. Fa schifo, dai, è una cosa schifosa. Io ascolto tutte le sere, è una cosa schifosa. Non riesco a capire con chi ce l'ha, perché lo sta facendo, che cosa vuole. È una cosa veramente schifosa. Ed è la pura verità di quello che ho detto, che ne fa passare la voglia proprio di accendere la radio. Quindi, è così e basta. È quello che ti ho detto. quando sei arrivata è dalle tue parti. Un bel forte, passi solo tu e boh, è un bel forte, deve stare molto attento perché lui non lo sa dove sono io. È un deficiente. Lui dove sono io non lo sa, però cioè, se arriva così forte io inizio a fare i calcoli, ma non me ne ha fatti nulla, forti anche sui rimpianti. Vaga, non vaga, non fare. Lascialo fare. Bravo, intelligente, si crede. Vai Franco. Capo, vabbè, cosa dai? Cioè, è importante, non riusciamo neanche a parlare, che discorso sia. A te, dalle tue parti schiaccia tutti, nessuno di noi passa, così è Franco. No, non ci passate. Qua l'unico che passa pulito è Claudio. Qua è un po' sento a Giulio e basta, voi no, a voi è vero. E chi sa presa che basta è nata, Edu? Così a Roma con un braccio la vuoi salvare sempre. Vabbè Giulio, non c'è niente, freghiamoci, pazienza. Ma quando è messo... Questo fischio è un bel fastidioso comunque. Certo, è. Un'impresa grande sta facendo, una grande soddisfazione si sta prendendo. Boh, Luca ci sei ancora? Oh, che mi meraviglia che a Luca arriva a fondo scala, buh buh. Per forza, linea d'aria, è vicinissimo, vai Natali. Ma Bombolo non gli arriva a fondo scala, Natali e Bombolo sono vicino. Ma Bombolo l'ha riconosciuto dalla voce perché si è tradito, il problema è quello. Vabbè, non lo so, speriamo che finisca. Si è tradito da Bombolo, lasciamolo fare, prego. Questo fischio è fastidiosissimo, ti entra nelle orecchie e proprio ti spacca i timpani. Facciamo continuare, che stavamo aspettando, ne sentivamo la mancanza. Stavamo detto che questa mattina sentivamo la mancanza, ci sta accontentando. Va bene, dai. Ci sentiamo, ciao Giulio, ciao Roberto e ciao anche a Claudio e a Luca se c'è ancora. E poi, vabbè. A te non ti sta toccando comunque, no? Quando parli tu non ti disturba. Quando parla coso, quando ha parlato Giulio Natalino non li ha disturbati. È un attimino per Claudio, ma forse si è sbagliato premendo. No, ma qua giù. Arriva 9.40 la Tedoce, no, questo va a casa tu. No, no, no, dove chiedi? 9.40 la Tedoce. Allora, quelle zone lì, dai, un po' più avanti magari. Quasi 9.40 da me, buonasera a tutti. Quindi a noi ci schiaccia tutti completamente, nessuno passa. Vabbè, dai, non ti preoccupare, lasciamolo fare. Continua. Ciao Giulio. Ciao Franco. Continua. Ciao Franco, e a te quanto ti arriva Fra? Forte anche qua. Con l'innesco, vabbè, arriva a 9.30 con l'innesco però Qua è 9 più 25 mi sta arrivando con quel fischio fastidiosissimo, a cui vi passo a tutti. Forse tu di radio riesci a passare comunque Fra. Non lo so, forse anche tu No, aspetta che vuoi sentire la musica tua, mettila a portare. Mettila a portare. Ce l'ha con Giulio comunque. Sì, ce l'ha con Giulio e anche con Natalino. Ciao a tutti, scusate. Ciao Fra, mi hai sentito? Allora riparla, dai, poi speriamo si stanchi, quello che dica. Io rimango qualche minuto, sono anche io interrompo, dai. Vediamo un pochettino. Di nuovo a te Franco il mic. Franco io? Franco, l'altro è andato via, Franco di Sorso, almeno lo rilancio, mi ha detto che è andato via, Franco ci si vede da Sorso, lui l'ha staccato, dai, anche lui si è stufato, io sono al limite, dai, avanti a te di nuovo Franco che farei girare per Luca e chi c'è l'altro, Giulio, non so Natalino se c'è ancora. Intanto li saluto tutti, scusate, sono entrato a gamba tesa, ma così.